Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come ormai capita da parecchio tempo, ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Eccoci qui allora per parlare di un argomento che già abbiamo toccato in altre occasioni, ma che quotidianamente si ripete. Ci sono tanti trucchi per riuscire a conoscere i codici di migrazione e poi magari ci troviamo che siamo passati a qualche altro fornitore di corrente elettrica piuttosto che del gas e quant'altro senza neppure saperlo. È una vicenda che ci vuoi raccontare nello specifico, vero Gianluca? Sì Francesco, come abbiamo già anche raccontato in altre puntate, abbiamo raccontato varie vicende che sono capitate, vicende di tutti i tipi e che riguardano appunto i famosi contratti o i contratti stipulati per telefono senza una vera volontà da parte dell'utente, o addirittura abbiamo anche raccontato ad esempio di un contratto stipulato a una persona deceduta, abbiamo raccontato di tanti contratti stipulati a persone che non avevano nessuna intenzione di passare da un operatore a un altro. Raccontiamo una vicenda abbastanza grave, secondo noi, ma insomma lo giudicherete anche voi, perché questa è la vicenda di una persona che si è rivolta all'Adico, tra parentesi, molto arrabbiata, giustamente, perché questa persona, tornata dalle vacanze, insomma, si è trovata cliente di Enel Energia, quando invece loro avevano come fornitore Enel, quindi sarebbe passato dal mercato tutelato al mercato libero. In parole povere, queste persone, tornando a casa, si sono trovate una lettera nella quale Enel Energia appunto annunciava il passaggio da Enel a Enel Energia stessa e appunto chiedeva appunto la conferma di questo passaggio. Queste persone, chiaramente, che non avevano mai fatto una richiesta di questo tipo, sono rivolte al punto Enel della propria città, in questo caso stiamo parlando di Mestre, per chiedere chiaramente lumi e per chiedere spiegazioni. E Francesco, quando si sono trovati di fronte al presunto contratto che avrebbero stipulato, hanno strabuzzato gli occhi, perché in quel contratto, diciamo di giusto, c'era solo il nome e il cognome e il codice fiscale della persona. Per il resto c'era un numero di cellulare sbagliato, era sbagliato anche il nucleo di persone componenti la famiglia, era sbagliata la metratura della casa, ma soprattutto c'erano 10 firme false, cioè 10 firme che il cliente ha totalmente disconosciuto. E devo dire che le ho viste anch'io personalmente, e ovviamente che le firme non c'entravano niente con le firme reali della persona. Ciò cosa significa, per fare chiarezza? Significa che un venditore di Enel Energia ha compilato da solo il contratto, conoscendo, non sappiamo neanche noi come, il nome e cognome della persona e il suo codice fiscale, che chiaramente è facilmente ricavabile da internet quando si ha la data di nascita della persona. Comunque non sappiamo come l'abbiano recuperato in ogni caso, e soprattutto questo venditore ha fatto 10 firme false. Quindi qua, Francesco, chiaramente ci troviamo di fronte a una truffa. Noi non stiamo chiaramente incolpando Enel Energia in quanto tale, stiamo incolpando ovviamente un loro venditore, un loro incaricato, quindi chiaramente indirettamente incolpiamo anche Enel Energia. Però voglio dire, questa vicenda ci dà l'idea della situazione in cui siamo ormai immersi, è un mercato selvaggio questo delle forniture e dei contratti stipulati per via telefono, dei contratti porta a porta, è un mercato selvaggio, per cui in questo caso la persona che si è rivolta a noi ha risolto il problema, perché è stata molto tenace, si è rivolta subito al punto Enel, ha scoperto subito cos'era successo. Però sai, chissà quante persone in realtà si trovano clienti di un operatore senza averne mai fatto richiesta. Ecco, tristissimo che capitino cose del genere, ma purtroppo capitano, quindi la cosa da fare è anche chiedere il supporto proprio delle associazioni dei consumatori. Sì, chiaramente Francesco, il supporto è fondamentale, perché noi interveniamo e conosciamo ovviamente i canali sui quali intervenire, perché chiaramente è il nostro lavoro. E c'è però una cosa da dire, l'utente deve stare attento, quindi il passaggio prima è ovviamente la prevenzione, noi siamo la cura, la prevenzione è quella di stare ovviamente attenti, molto attenti ai propri contratti. Io noi come Adico invitiamo anche palesemente a non rispondere alle telefonate commerciali, nel caso in cui uno possa vedere ovviamente che le telefonate arrivano per esempio da fuori provincia, se non si ha alcuna intenzione appunto di capire come vanno le nuove offerte, e di stare molto attenti quando si riceve una telefonata e si risponde, perché come abbiamo detto più volte basta un sì per ritrovarsi clienti di un operatore piuttosto che di un altro senza aver fatto minimamente richiesta. E ovviamente nel momento in cui succede spesso ci si ritrova appunto ormai fregati, tra virgolette, a quel punto la soluzione è quella assolutamente di rivolgersi all'associazione dei consumatori. Sappiamo come muoversi, sappiamo come gestire le situazioni, quindi ecco, se avete dei problemi di questo tipo affidatevi a noi che sicuramente possiamo risolverlo. Stiamo anche attenti prima a come ci comportiamo con i call center, con i venditori porta a porta, perché è molto rischioso, certo. questo periodo, quindi insomma... Ecco, chiuderei la nostra piccola chiacchierata ricordando che quando abbiamo anche dei documenti sensibili, quindi vecchi fogli con i nostri dati anagrafici, codici fiscali, partite IVA o quant'altro, distruggiamoli prima di gettarli nelle immondizie, perché anche da una ricerca sulle immondizie, sulla carta, si possono trovare dati sensibili che possono essere utilizzati da qualche malintenzionato proprio per sfruttarli a proprio vantaggio. Quindi teniamo conto anche di questo, distruggiamo bene le carte, quelle con i dati delle banche o cose di questo genere, prima di gettarle. Grazie all'Adico, grazie all'Associazione Difesa Consumatori che ha il sito associazionedifesaconsumatori.it. Gianluca, con te ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.